A tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, torna a 6 Nazione, stiamo combattendo contro il Galles nella partita di apertura di questa terza giornata che vivrà sportivamente il clou in Francia-Inghilterra a seguire. Giorgio De Luca in redazione, Paolo Corleoni in regia, Andrea Zorzi qui con me, ciao Andrea. Ciao, ben ritrovato. E poi voglio fare anche un altro discorso, legato al rugby, perché ho delle cose che voglio capire sull'appeal che questi sportivi hanno nell'immaginario collettivo. E allora, dalla settimana della moda, la rumba è cominciata qui a Milano, ho strappato a showroom e sfilate l'inventore di un marchio molto giovane, molto trendy, che quindi può spiegarmi perché i rugbisti sono così ricercati, perché io ancora non lo capisco. Paolo Atti, Barboni di Lusso, ciao Paolo. Buongiorno, ciao Carlo. Buongiorno, però prima ovviamente c'è l'evento, c'è quanto sta succedendo al Flaminio, stiamo combattendo e non è ancora detto. Dario Ricci, ciao. Sì, ciao Carlo, 62esimo di gioco qui al Flaminio, il Galles è avanti ma appena di 5 punti, 21-16 per i Dragoni, dopo un primo tempo che si era concluso sul 21-11. Nella ripresa c'è stata l'unica marcatura, la meta di Capitan Parisse all'11esimo, pallone perso dai gallesi, il recupero di Semenzato, il break e poi il pallone offerto a Parisse che ha schiacciato in meta. Anche in questo caso l'arbitro Barnes ha fatto riferimento al television match officer per assegnare la meta, dico anche in questo caso perché nel primo tempo invece sempre il TMO aveva annullato un'incursione in meta di Zannia. Un'Italia certo non perfetta in una partita intensa ma rugbisticamente caratterizzata da parecchi palloni persi anche da parte dei gallesi, ma un'Italia che sta combattendo fino all'ultimo, spinta da Capitan Parisse, dall'ottima regia di Semenzato, pochi istanti fa è stato sostituito da Cannavosio, da un'ottima mischia che ha messo in soggezione quella gallese in più occasioni, gallesi che del resto sono privi di due titolari in mischia e che adesso però sono ancora in avanti all'altezza dei 10 metri dalla linea di meta azzurra grazie all'incursione di Jones. Galles ancora in avanti, è Phillips che sta organizzando l'azione offensiva dei gallesi e già si prepara Stephen Jones probabilmente per tentare il drop che a questo punto potrebbe chiudere la partita. Galles ancora in avanti, la nostra prima linea tiene il pallone a Duke, prova il drop e c'è Hook, il solito Hook di Andadire, anche oggi autore di alcune giocate offensive straordinarie, dimostra ancora una volta che anche col piede, ed è un eufemismo, ci sa fare e realizza il drop dai 22 e quindi punteggio Galles 24, Italia 16 quando mancano poco più di 7 minuti alla fine. E la sconfitta si avvicina con questo drop che ci hai appena raccontato di Hook. Avessimo un giocatore così staremmo a fare altri discorsi. Il problema vero che si ripropone è che comunque anche oggi con la palla in mano non sappiamo benissimo cosa fare. Dunque adesso aspettiamo la fine di questa partita, poi ne chiacchieriamo insieme su questa gara e su 6 Nazioni. 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666. Parleremo anche di un sacco di altre cose, non so se ne avete voglia, della pessima eurosettimana delle italiane, mi fanno molto ridere le generalizzazioni che vengono fatte, e cioè è il nostro movimento in crisi, è come giochiamo male, come siamo tristi. In realtà secondo me è un po' sempre stato così, nel senso che le grandi squadre con tanti quattrini, che oggi sono poche, non rappresentano a mio parere un movimento ma rappresentano soltanto se stesse. È capitato per l'Inter che è campione d'Europa in carica, quindi sono passati solo pochi mesi, non anni luce dall'ultima Coppa dei Campioni alzata, succedeva per il Milan in precedenza. Io credo che questo non sia indicativo del valore di un movimento. Non so come la vedi tu, Andrea. No, non si può giudicare il movimento solo da una squadra, è però vero che forse il movimento nel suo complesso ha una forma, e per esempio se si pensa alla Premier League l'idea è un po' diversa. Le partite più spettacolari, la settimana scorsa sì, Luca Calegari ci diceva per esempio che era evidentissimo il fatto che in Italia per vincere a volte basta affidarsi anche ai colpi del singolo individuo, a livello europeo questo non basta e quindi per andare avanti in Champions League devi poter contare su una squadra un po' più sì, organizzata e più equilibrata. Però ne puoi fare una questione di movimento, cioè movimento italiano in crisi. Lo sport italiano è sempre stato, secondo me, un po' cupo, un po' triste, un po' legato al risultato, alle tensioni, alle pressioni. Insomma, è un movimento, ma è sempre stato così. Cioè, non me ne ricordo uno diverso. No? Che non sia una novità, sono d'accordo con te, che però ci siano caratteristiche nazionali che poi si riconoscono nel modo in cui giocano, beh, questo fa parte un po' dell'antropologia sportiva, che è un tema apparentemente complicato ma molto divertente. Paolo Atti, un po' poco colorato lo sport italiano, o no? Pochissimo colorato in questo momento, secondo me. Con tutto lo sport italiano? No, adesso parlavamo del calcio, della settimana, delle coppe, però io sono uno che... quando guarda le partite di rugby come quella di oggi trova una passione, una grinta e un grande colore. Ma perché colore. I rugbisti piacciono così tanto? Guarda, io ti ho chiamato anche, guarda caso, mi è capitato per le mani Max, non faccio pubblicità, però un giornale che insomma che tutti conoscono. Io preferisco la copertina con Eva Riccobono, però tu lo apri e ci trovi una gigantografia di Capitan Parisse in varie pose, molto così, molto, molto mace, eccetera. Perché il rugby attira così tanto il mondo della moda, il mondo dell'immagine, il mondo del fashion, pur essendo uno sport, oh, mi spiace dirlo, però così perdente, dal punto di vista sportivo, dei risultati? Io credo che finalmente ci si accorga della grande passione che c'è in questo sport, della grande grinta. La filosofia di questo sport è proprio la passione e la voglia di lottare. Quindi il risultato non conta nulla per l'immagine? Io credo che purtroppo alla fine il risultato conti sempre, però vediamo che si stanno accorgendo che queste persone, questi giocatori, sono veramente degli status, sono molto glam, molto rappresentativi dal punto di vista, perforano proprio anche lo schermo quando li vediamo ultimamente molto spesso. Quindi tu ritieni per esempio che la passione che caratterizza un rugbista sia superiore a quella che caratterizza un judoka Pino Maddaloni o uno schermidore? C'è qualcosa di diverso? Io credo che il modo in cui questo sport si propone nello schermo e nella sua forza vera, brutta, in questo momento riesca a penetrare meglio nelle persone, negli spettatori. Però credo che la passione che muove ogni sportivo professionista sia indiscutibile. No, su questo c'è la possibilità di vederlo. A te non hai mai chiesto, per esempio, di fare servizi di... o hai mai fatto qualcosa? Non ricordo servizi di... cioè, fatto un paio. Onestamente, adesso non voglio stare a fare di... Guarda, che anche però... noi siamo stati, secondo me, come i rugbisti, per un momento considerati un po' gli atleti che avevano più appeal, perché la pallavolo, in quel caso, perché la pallavolo vinceva, e quindi c'era questa connessione. Il calcio tira comunque, no? Quindi i calciatori in mutande sui giornali li vedrai sempre. Purtroppo, io non do per scontato, però. Per scontato che i radioascoltatori ci seguono tutte le settimane, però più volte abbiamo detto che ciò che ci colpisce non è il fatto che la gente si sia innamorata del rugby, è che ci colpisce che non ci sia nessuna apparente relazione diretta tra la prestazione sportiva e il marketing, l'immagine che sta invece molto molto vicina al rugby. Questa è la sorpresa. Evidentemente si può anche non vincere e comunque restare un fenomeno di moda o di marketing. Però voi, pur avendo vinto, avendo fatto epoca, poi parliamo anche di momenti dello sport che hanno messo dei picchetti nella vita di ciascuno di noi. Abbiamo una bellissima scheda nella seconda parte con un match indimenticabile che ha segnato la vita di molte persone che seguono lo sport. Però voi così popolari non siete mai stati, Andrea? No, così tanto no. No. Ah, sai una cosa, molto in mente, parlo di marketing. Sì. Qualche tempo fa mi dissero una cosa che mi aveva colpito: se tu sfogli qualunque tipo di giornale, che sia settimanale o quotidiano, guarda un po' le pubblicità e vedi se riesci a individuare una parola, un termine, un aggettivo che sia molto ricorrente. Per esempio, a me risuona spesso passione, che è un termine che spesso si usa nei claim. E dicevano: guardate che quella parola che compare con così tanta frequenza nei claim è esattamente ciò che manca nella società. Secondo me comunque ci sono due aspetti fondamentali. Uno è quello che quando si vince c'è sempre il momento clou e l'immagine a altissimo livello, e l'altra è quella della passione vista nel personaggio, in questo caso parliamo dei rugbisti o nel giocatore di qualsiasi categoria, di qualsiasi sport, vissuta nel momento stesso, cioè la passione, la voglia di fare, di arrivare sempre e comunque, cioè, quello tu li vedi un po' sporchi, sanguinanti, sofferenti, quello così, e quello colpisce l'immaginario collettivo. Quello colpisce molto. Dario Ricci, l'ultimo flash prima del traffico. Un minuto alla fine, sempre 24-16 per il Galles, azzurri in avanti ancora con Mirko Bergamasco, e poi c'è la palla persa di Orchera che restituisce il pallone ai gallesi e che forse sancisce anche questa ennesima sconfitta nel Sei Nazioni. E Stephen Jones ora che calcia nei 22 azzurri a Bosavai, che va a recuperare il pallone sottraendolo addirittura a Shane Williams, che come un falco si era già proiettato per recuperare l'ovale. Il pallone ora in mano a Cannavosio, che per Zanni prova ad allargare il gioco l'Italia con Luke McLean, ma ancora una volta la prima linea gallese fa buona guardia. Siamo sul ben al di dentro della metà campo azzurra di gioco. C'è un'altra palla persa da parte degli azzurri. Perugini prova a recuperare invece Stephen Jones, che si ritrova con il pallone in mano, e quindi adesso arriva il fischio dell'arbitro. Barnes non è ancora conclusa, ma di fatto mancano veramente pochi istanti alla conclusione di questo match. 24 a 16 per il Galles. Mancano 20 secondi all'ottantesimo minuto, dunque siamo alla fine. Galles 24, Italia 16, e questo che sentite è il cucchiaione di legno che sta arrivando, sta camminando verso di noi. Speciale Sei Nazioni. Non è ancora ufficiale il risultato, è ufficiale però la sconfitta, anche se manca il fischio finale. Questo non è calcio, è impossibile ribaltare il risultato. Diventa ufficiale in questo momento il risultato del Flaminio. Dario Ricci, qual è? Sì, 24 a 16 per il Galles. 24 a 16, arriva la terza sconfitta azzurra in questo Sei Nazioni, ma una sconfitta che ha un sapore ben diverso, Carlo, da quella dalla batosta di Twickenham. Oggi gli azzurri hanno lottato, combattuto, soprattutto nel primo tempo, soprattutto all'inizio, dopo il vantaggio di Jones con una punizione arrivata alla meta di Canale, che ha sfruttato un errore dei gallesi di Stoddard. Dall'ottavo poi la meta invece ancora dei gallesi con lo stesso Stoddard. Al dodicesimo poi la punizione di Mirko Bergamasco, anche oggi impreciso al calcio, 2 su 5. Mario, sentiamo Semenzato che sta parlando con Sky. Il risultato che da un punto di vista mentale, loro là non mollano, ci si riportano di qua, segnano il drop e ammazzano la partita. Resta l'amaro in bocca perché l'abbiamo mollata noi, secondo me. Il tuo grandissimo primo tempo, soprattutto con quei calci direttamente dalla base, a mettere sotto enorme pressione la retroguardia gallese, sembra che piano piano stai prendendo in mano sia il pacchetto di mischia, ma soprattutto anche la cerniera ideale per questa linea di tre quarti. Guarda, è un'organizzazione, io faccio solo quello che mi dicono, non è che prendo in mano una squadra. Sono arrivato a 2 partite, non credo di aver preso in mano una squadra. Nel momento in cui lavoriamo bene su un calcio ben fatto, riusciamo a riportare la pressione al nostro gioco, possiamo mettere veramente in difficoltà le altre squadre. Grazie mille, complimenti per la partita. Questo Semenzato a bordo campo ai microfoni di Sky. Sentiremo poi anche le voci degli altri azzurri. Siamo tornati dalla batosta disonorevole all'onorevole sconfitta, però il passo è sempre corto. Mi aveva colpito mentre parlavi del fatto che il rugby non è come nel calcio, sì. In certi momenti non puoi recuperare il punteggio, e qui c'è una differenza grande tra gli sport che hanno il tempo come termine e che quindi bene o male, magari solo alla fine però non puoi recuperare, e altri sport invece che sono legati al raggiungimento di un punteggio che fino all'ultimo istante non è veramente mai finito. La popolarità gigantesca del calcio è proprio questa sua magia, no? Il fatto di non essere prevedibile, nulla è scontato, puoi giocare male, fare un tiro in porta e vincere. Bravo, poi. E basta un gol per essere decisivo. Nel basket devi fare 80 punti, nella pallavolo 75 punti. Prova a chiedere ai tifosi del Milan, quella notte che persero, che stavano già festeggiando nell'intervallo. Vabbè, insomma, anche questa è storia, come di momenti storici parleremo dopo. E mi piacerebbe già domandarvi quali sono i momenti sportivi che hanno segnato la vostra vita, perché qualche ricordo ce l'avrete di sicuro tutti, a prescindere dall'età. Angelo da Roma è il primo ascoltatore di oggi, 800240024, numero verde, buonasera. Buonasera, buonasera a lei. Dica. Ecco, io vorrei una piccolissima critica nei confronti suoi personali, sì. Se posso, perché lei è un po' troppo da attiverlo un po' nei confronti di questa nazionale. Glielo faccio sentire ancora, sta arrivando Cucchia. Vabbè, ma non si può perdere sempre, Angelo. Capisco che lei ha bisogno di... Io voglio essere costruttivo, sì, non si può dire che sono belli e bravi. Ma lei ha ragione. Però diciamo che capisco che ha bisogno di fare la trasmissione, però vabbè, comunque cambiamo discorso. Senta, io invece sono contentissimo perché si parla di questo sport che era una volta uno sport di nicchia, adesso è diventato uno sport non di massa, perché non arriverà mai a essere come quelli di massa. Sei Nazioni è di massa, livello di nazionale non è di cultura nostra, diciamo. Noi ci stiamo accingendo a entrare e questo io sono molto contento, perché io lo parlo da tecnico, io sono un tecnico che insegno rugby ai bambini e io e quello è il lavoro importante. Ecco, io le dico solo una cosa, che in un quartiere di periferia di Roma dove c'è una situazione abbastanza particolare, non voglio fare nomi di quartiere, sennò altrimenti poi dopo diciamo, io e alcuni miei collaboratori mossi da questa grande passione che ci porta al freddo, al fango, eccetera, eccetera, nel giro di 3 anni abbiamo tirato su una scuola con 120 bambini che vogliono venire loro a fare rugby, non sicuro. Sicuro, ma è uno sport meraviglioso. Allora, intendiamoci, ma non c'è dubbio, è uno sport meraviglioso. Sì, io inviterei tutti i bambini, io vorrei che tutti i bambini provassero a giocare a rugby. Poi vogliono andare avanti, non vogliono andare avanti, questo è un altro discorso. Io credo che il vero valore della partecipazione italiana a Sei Nazioni sia stato quello che Giacomo Bagnasco, che è già in linea, ci ha raccontato tante volte, cioè quello di muovere, tanta attenzione. Certo. Poi tecnicamente, certo, noi abbiamo grandi limiti, anche oggi abbiamo visto tante tusce perse, non perfetto, riusciamo a trovare, però bisogna con dobbiamo il rugby lavorare, che è un movimento, bisogna lavorare con il rugby. Una cosa poi, dica. Noi abbiamo da pochi anni, la federazione ha creato delle accademie anche interzonali dove si sta lavorando sulla qualità. Noi stiamo cercando di portare su un movimento che possa poi in un futuro vincere. Io ricordo solamente una cosa, che la Francia, che è la nazione che ha vinto tanti slam, eccetera, eccetera, il primo torneo tra 5 nazioni che ha vinto, l'ha vinto dopo 40 anni della sua partecipazione. Questo è quello che io voglio dire. Poi io le ringrazio comunque, perché io voglio che si parli di rugby, perché il rugby, tutti gli sport... Ma ha ragione, ma noi lo facciamo più belli, che volentieri. Sono belli, bambino che lotta, combatte, ma non c'è dubbio. E mi dice a me, mister, hai visto che ho fatto, ho vinto, ho lottato, sono contento, sono felice. Ecco, questo è bello. Poi, sì, non c'è dubbio, ma anche la cultura che ci sta intorno, quello del fatto che comunque è uno sport di combattimento, bisogna combattere, combattere, giocare e divertirsi. Forse adesso, i giovani da adesso... Angelo, grazie, arrivederci. Andrea. Forse va chiarito ancora una volta, la tua non è una critica al rugby. Il fatto che non si possa toccare, quindi se ne pare male sei il... Io faccio questo mestiere, secondo me bisogna provare ad essere anche un po' critici, cioè bisogna anche provare a dire, come ha detto l'altro giorno con 3 parole azzeccatissime un nostro amico. Pino Maddaloni, bravissimo. Judoka, cosa campione detto? Olimpico a Sydney. Se non vincono, non sono bravi. Ragazzi, Giacomo Bagnasco. Eccoci qua, buongiorno. Ciao. Ho sentito abbastanza. Allora, cosa dici? E allora, questa partita, sì, siamo tornati alle onorevoli sconfitte, siamo tornati, se vogliamo, anche alle occasioni perse. Con una differenza, secondo me, naturalmente non facciamo la differenza con quella di sabato scorso, dove era stata un'Italia inguardabile e umiliante, ma una differenza anche rispetto alla partita con l'Irlanda. Tutto sommato si è vista un'Italia in grado di fare veramente soffrire l'avversario, ma anche di proporsi un po' meglio in avanti in alcune circostanze. Il conto delle mete è finito 2-2, le due mete dell'Italia sono state due mete, se vogliamo, trovate, non costruite, però in qualche altra occasione gli azzurri qualcosa sono riusciti a costruire. Il Galles ha giocato in grossa difficoltà per tutto il secondo tempo, perché aveva una mischia che non era in grado di reggere il confronto, però il Galles ha avuto il merito, e qui si vede tuttora la differenza, di segnare due mete sicuramente belle e spettacolari, e poi di poter un po' anche speculare su questo vantaggio, che non è mai stato molto ampio, ma da un certo punto della partita c'è stato. Ecco, il Galles ha segnato le sue due mete nel primo quarto d'ora, poi è una squadra che ha sofferto, e per questo dico che in fin dei conti è stata un'occasione persa per un'Italia che A mio avviso è stata anche un po' più vivace del solito, sì. Si è proposta sì, è più spesso nella è anche nella, vero Giacomo che il Galles che il Galles non ha la capacità di impatto e di incontro di difesa che ha l'Inghilterra, quindi non ti dico che ti lasciano giocare, però dico che forse è un po' più semplice giocare contro il Galles che non giocare contro l'Inghilterra. Guarda, senti una cosa, senti. È sicuro, sì. Questo è sempre il rumore del cucchiaio di legno che sta arrivando. Ah sì sì, ma quello c'è Andrea Zorzi che voleva farti una domanda. Perché si chiama cucchiaio di legno? No, beh, per quanto ne so, c'è una ragione reale, non è un trofeo così che è proprio così del tutto virtuale, perché in un caso alla squadra che aveva perso tutte le partite in un torneo è stato dato per così, un po' per scherzo, un po' per scherno, un po' per prenderli in giro, un cucchiaio di legno, come dire, vabbè, se chi ha vinto ha vinto qualcosa, ma anche voi avete vinto questo cucchiaio tirato fuori probabilmente da una credenza. Il fatto è che la nostra credenza ormai è piena, ormai pieno, è piena. Sì, Giacomo, sì. Un attimo, 800240024, numero verde. Paolo Atti, cosa dici di questi discorsi che stiamo facendo del cucchiaione? Dico che il cucchiaione di legno noi lo usiamo per mescolare i sughi delle polpette meravigliose che facciamo a Bologna, e quindi non è tutta questa. Siamo questo male. Il lusso del Sei Nazioni. Esatto. Laura da Milano. Buonasera. Io, buonasera. Il mio intervento non è sicuramente di natura tecnica, perché non ne ho gli strumenti, sì. E quindi quello che mi piaceva di dire era che in ragione di quello che appunto avete raccontato prima circa perché piace il rugby, piace perché è uno sport sano, perché sì. È uno sport sincero, perché ci si mette l'anima, la passione, il sudore, il sangue, le lacrime, sì. E io ho avuto la fortuna, mi ha regalato il biglietto per vedere la Nuova Zelanda Italia a Milano. Io ho sempre cercato di seguire la nazionale in giro per il mondo, mi ha regalato questo biglietto, ero l'unica, ero da sola, perché era un unico biglietto che avevamo potuto regalare, e mi sono sentita come sempre sicura, accolta, una grande festa, un grande esempio secondo me, sì, di quello, sì, che dovrebbe essere lo sport. Al giorno d'oggi. Ma questo, cara Laura, il suo intervento è bellissimo, è molto migliore di quelli tecnici, ma sono cose che nessuno mette in discussione tutto quanto lei ha detto, è un dato di fatto. Ma che non rende il rugby l'unico sport che può offrire questo tipo di caratteristica. Non è che negli altri sport ci si picchia, non è che negli altri sport non c'è passione, non c'è sincerità, c'è un po' meno sangue, questo è vero, e questo certamente affascina molto, anche perché nelle immagini televisive, per esempio, come diceva prima, questo aspetto rude, questo aspetto del guerriero funziona moltissimo. Ma il giudizio è duplice. Un discorso è l'aspetto televisivo e la costruzione che sta dietro a questa impalcatura del marketing. Un altro discorso è quello del rugby, della sua sportività, della sua essenza. Certo. Non so se Dario Ricci vuole aggiungere qualcosa a chiudere il collegamento. Ma aggiungo, Carlo, una nota di colore. In tribuna c'era anche Claudio Ranieri, che quindi probabilmente è venuto a fare un bagno, un tuffo nelle tribune del Flaminio per dimenticare le recenti disavventure. Sì. E poi una battuta con un nostro ospite, Domenico Calcagno, inviato del Corriere della Sera. Proprio in sintesi, Domenico, si passa dalla batosta di Twickenham all'onorevole sconfitta di oggi, l'ennesima, però rimaniamo sempre un po' fermi al palo e al cucchiaio di legno che è in arrivo. Sì, diciamo che il cucchiaio di legno ormai è prenotato, è un peccato perché oggi avevamo risolto il problema del mediano di Mischia, oggi la nazionale ha fatto anche alcune cose buone, però nel rugby di un certo livello non è possibile vincere senza un calciatore. C'eravamo illusi che Mirko Bergamasco potesse essere un calciatore per questo livello, non lo è, e abbiamo pagato quegli errori lì che sono imperdonabili, soprattutto per una squadra come la nostra che fa una grandissima fatica a creare, a fare punti, a creare situazioni buone in attacco, insomma. Grazie a Domenico Calcagno. Aggiungiamoci poi gli errori della Touche, che si è ripetuta, sì, su livelli piuttosto bassi. Una Mischia sì eccellente, ma ma le percentuali al calcio sono state veramente negative, 2 su 5 di Bergamasco, 0 su 1 di Orchera, che poi è entrato nella parte finale della partita. Insomma, se troviamo un mediano perdiamo un calciatore, troviamo la mischia, riperdiamo la touche, non si riesce mai. La coperta ti restano i piedi scoperti come al solito. Grazie Dario Ricci, grazie Giacomo Bagnasco. Io ho già qualche ascoltatore che invia via SMS alcune emozioni sportive che gli hanno segnato la vita, ad esempio scudetto Juve Caserta di basket, miracolo, te la ricordi la frase di Enzo Gentile, di Enzo Esposito, non Enzo Gentile, sulla barella a Milano in finale, me la ricordo e come. Altro, Alberto Tomba, medaglia d'oro in slalom speciale alle Olimpiadi Calgary 88 in remote 6 centesimi su Frank Wonderl. Ce n'è anche un altro che volevo leggerti, Andrea, prima di fermarci un attimo, che è questo: il fare tendenza non significa essere vincenti. Anche nella pallavolo la pettinatura di Steve Timmons ha fatto tendenza. Forse la nazionale di rugby ha troppi modelli e pochi guerrieri. Steve Timmons, 2 Olimpiadi vinte. Sì, 2 Olimpiadi vinte, appunto. 2 Olimpiadi vinte. Poi i capelli. Lo hanno reso all'interno dei suoi compagni quello più riconoscibile per il ruolo, per i capelli. 2 Olimpiadi vinte. Contano di più le medaglie o l'immagine? Medaglie tutta la vita. Poi arriva l'immagine. Magari. Qui io, Andrea Zorzi e Paolo Latti ci stavamo interrogando sui momenti sportivi che hanno segnato la nostra storia e tra un po' li tiriamo fuori anche noi. C'è invece un messaggio molto bello che arriva da Bari, provincia di Bari, di Dino. Avevo solo 6 anni, credo fosse la semifinale di Coppa Campioni Aston Villa-Juventus, perché non è necessario sia un trionfo assoluto, una coppa, ognuno ha i suoi momenti secondo me. E lui scrive, credo fosse la semifinale di Coppa Campioni Aston Villa-Juventus ai supplementari, con mio padre davanti alla TV a soffrire fino alla fine. È il ricordo più bello che conservo del mio papà. Quella sera è nato il mio amore immenso per il calcio e per la Juventus. È così, è così. Lorenzo, da Modena, buonasera. Buonasera, buonasera. Dica. Niente, il mio momento sportivo che ricordo con maggiore piacere è sicuramente la finale di Coppa Campioni di Atene del Milan. Quella è stata la prima volta che sono andato a fare un carosello con un po' di amici e sicuramente è stata una bellissima esperienza. Sì, e del rugby cosa mi dice? Del rugby le dico che secondo me, pur lasciandomi parecchia mare in bocca a tutte queste sconfitte che stiamo inanellando, però è sempre uno sport affascinante, un po' per il discorso che facevate voi prima del sangue, della durezza dello sport, e un po' perché comunque in mezzo a tutto questo furore agonistico c'è sempre una buona dose di signorilità. Il fatto che nessuno dica parolacce o abbia atteggiamenti. Parolacce vediamo. Parolacce vediamo. No, ma è chiaro. No, ma il suo concetto è chiaro ed è ampiamente condivisibile. Sono cose che, ripeto, come quelle dette da Laura prima, nessuno mette in discussione. Le cose che mettiamo in discussione sono altre, cioè siamo all'interno di un movimento ricchissimo che si trova all'interno della miniera d'oro del Sei Nazioni e che può continuare per anni a dire facciamo progressi, siamo forti in difesa, prima o poi arriviamo. Io credo che il tempo sia scaduto quasi, no? Perché come si diceva prima con Andrea Zorzi e Paolo Latti, va bene l'immagine, va bene la rudezza, va bene il glamour, va bene quello che volete, ma poi servono anche le medaglie. Sentiamo questa scheda curata da Cristiano Bartelloni. Un incontro di box è come un duello tra buoni e cattivi. C'è della gente che paga per vedere i cattivi perdere. La frase è di Sonny Liston, pugile statunitense e campione del mondo dei pesi massimi dal 1962 al 64. Sonny aveva avuto un'infanzia terribile, passata a raccogliere cotone e frustate nelle piantagioni dell'Arkansas. La sua carriera era stata fulminante. Aveva battuto i 13 pretendenti al titolo di campione del mondo nel giro di pochi mesi, puntando il suo irresistibile pugno verso il detentore, Floyd Patterson. Il match durò soltanto 2 minuti. Sonny Liston era campione del mondo. Per 2 anni vestì i panni del grande orso cattivo, battendo gli avversari con una facilità imbarazzante. Ma Sonny non era il campione che l'America voleva. Violento, colluso con la mafia e con una lunga permanenza nelle carceri federali. Serviva un buono, serviva Cassius Clay, l'uomo che sarebbe diventato la più grande leggenda dello sport moderno. Il 25 febbraio 1963 a Miami si tenne un incontro che tutti valutavano come squilibrato. Clay era dato a 7 volte la posta dagli allibratori, ma proprio le scommesse clandestine gettano un'ombra su quel match. Liston si ritira alla 7ª ripresa per un infortunio alla spalla e il 22enne Cassius Clay è campione del mondo dei pesi massimi. 15 mesi dopo va in scena la rivincita. Il detentore ha cambiato il suo nome in Mohammed Ali dopo la conversione all'Islam e per questo motivo il match si tenne in sordina a causa del rifiuto delle principali sedi pugilistiche di ospitare l'evento. Davanti a una platea semivuota, Liston cede dopo un minuto, colpito dall'ormai storico Phantom Punch, il pugno fantasma. Quasi 50 anni, quasi 50 anni da quell'incontro, il pugno fantasma, di cui ci sono alcune immagini anche su internet, in cui sembra una carezza, in realtà sì. Sonny Liston sviene per terra. È uno dei momenti storici, no? L'hanno poi usato molte altre volte nella box, anche in incontri non tra Sonny Liston e Muhammad Ali, ma tra altri pugili, per così far pensare anche alle scommesse illegali. Avete sentito Sonny Liston, il pugile della mafia, cadeva a terra, mal di spalla, queste cose, che è un tema di quelli un po' critici. E di cui parliamo insieme a questi momenti sportivi che ci hanno caratterizzato, ci hanno segnato la vita. Per quanto mi riguarda, Ali Frazer è il primo ricordo che ho. Ricordo in chiave pugilistica la vittoria olimpica di Patrizio Oliva. Però per affrontare questi temi meglio, una delle icone invece del nostro giornalismo sportivo, come Gianni Merlo, che è presidente tra l'altro dell'International Sports Press Association, che sta lavorando sul tema cui Andrea Zorzi faceva riferimento. Gianni, buonasera. Buonasera a voi. Ci racconti un po' com'è questa vostra scelta di considerare le scommesse illegali un rischio per lo sport grave, almeno quanto il doping? Io direi che questo è un pericolo più grave del doping, anche perché può essere collegato al doping stesso. Diciamo che, discutendo anche con gli stessi operatori ufficiali delle scommesse, cioè i presidenti delle varie lotterie nazionali, che vedono in questo cancro un pericolo anche per la loro stessa sopravvivenza, non solo di quella dello sport, perché le scommesse illegali, o chiamiamole anche clandestine, possono avere il potere di cercare di manipolare i risultati sportivi, e nel momento in cui lo sport finisce per essere vittima della manipolazione, allora lo sport muore anche. E quindi penso che anche voi sarete d'accordo con me nel dire che se lo sport finisce nelle mani delle gang, delle scommesse illegali, finisce come attività sociale, come attività culturale, e sparisce anche, diciamo, da un certo tipo di mondo. Ma se riesce a calcolare a grandissime linee qual è il giro d'affari delle scommesse illegali e se ci sono delle zone a livello mondiale che sono più esposte di altre? Anche perché ogni tanto salta fuori qualche dossier che arriva dal calcio dell'est, che arriva da angoli del pianeta strani. No, il problema delle scommesse illegali è che soprattutto è un vento che spira molto spesso, che arriva dall'Asia. Una delle centrali è Hong Kong, e poi a varie, diciamo, diramazioni, perché a seconda dello sport ci sono differenti modi di operare. È chiaro che negli sport individuali, dove sono solo 2 i partecipanti alla partita o al match, può essere più semplice giocare su questo. Vi dico che è successo nel tennis talvolta, nella box, negli sport di squadra è un tantino più complicato, ma è possibile. Negli Stati Uniti, ad esempio, adesso magari certe volte si agisce poco sulla vittoria o sulla sconfitta, si agisce sui punti di differenza, dove è molto difficile poi dimostrare la cattiva fede dei giocatori, perché la squadra vince lo stesso e loro intascano lo stesso i soldi, no? Certo. Gianni, ti chiedo un attimo di pazienza perché abbiamo il traffico, subito dopo torniamo, facciamo altre 2 chiacchiere prima di salutarti. Traffico. Stiamo parlando sport e scommesse. Gianni Merlo, nel recente incontro che avete avuto con Jacques Rogge, presidente del CIO, strategie per combattere questo rischio grosso? Beh, strategie, soprattutto è necessario l'intervento dei governi. Adesso, proprio lunedì e martedì a Losanna, c'è una riunione dove Rogge ha convocato alcuni ministri di vari paesi per discutere come è possibile cominciare una cooperazione per arrivare a dei risultati, perché il CIO, le federazioni internazionali non hanno un potere investigativo, non hanno il potere investigativo di una polizia, perché chi può fare indagini vere? Cioè, mi diceva Platini, ma io non posso mandare un mio impiegato a cercare di scovare come la mafia agisce, perché non ha né la competenza neanche la possibilità, e perché certo. devo fargli correre un rischio. Certo, cioè, certo, quindi certo. È un progetto molto vasto che deve vedere in prima linea soprattutto i governi che si mettono d'accordo per creare magari un'agenzia. Sì. Loro pensavano a una sorta di vada del crimine, che è molto difficile, però ho visto che Rogge sta già pensando per ora a lanciare un progetto e poi si vedrà come potrà certo. essere affinato. Ma è chiaro che senza l'aiuto della polizia, già è intervenuta l'Interpol in qualche caso, ma senza un aiuto costante nella polizia. Non c'è dubbio, serve l'intervento dell'autorità. Gianni, ti chiedo ancora questo, non c'entrano le discorsi che stiamo facendo, che mi piacerebbe riprendere con più calma, magari con Andrea qui presente, uno dei prossimi sabati, insomma. Momenti sportivi che prima match Livingston Ali, momenti sportivi che a te personalmente hanno segnato la vita, perché ciascuno di noi porta dentro dei paletti sportivi. È una bella scelta per Gianni, visto che di sport ne ha visto molto. E lo so, però magari ce n'è qualcuno in particolare. Diciamo che... A livello personale, non professionale. A livello personale è stata proprio l'Olimpiade di Roma, ero un ragazzino, avevo 13 anni, mio padre mi portò a vedere l'Olimpiade, ho visto Berruti vincere quell'oro fantastico, poi sono andato a vedere altri sport, il nuoto, non sono andato a vedere il pugilato, l'unica cosa che mi mancava è il pugilato, però diciamo che senza volerlo mio padre mi ha portato poi nel mondo in cui io sarei vissuto per tutta la mia vita fin qui. Certo. Grazie Gianni. Guarda, ciao. Che spesso i momenti sono quelli che si vivono da giovani, ma certo. che rimangono per un sacco di tempo. Allora, adesso interrogo voi, te Paolo Atti, te da un pulpito molto strano. Il mio momento. Noi invece da uomini della strada. Perché vedi, ha ragione Gianni Merlo, io leggo solo questi messaggi. Quando il Perugia al primo anno di Ascon sconfissa la Juventus 2-1, ero bambino, un'emozione grandissima, Massimo da Perugia. Oppure... Cova, oro nei 10.000 a Los Angeles, alla TV di notte. Milan Steaua, 89, alla TV, a Militare, Madrid, 82, scrive Paolo. Poi c'è Gaetano Da Luca che ricorda addirittura un episodio stranissimo, molto lontano, no? Il 92 gol di Vilfort nella finale degli europei di Svezia, di calcio tra Danimarca e Germania. Oltre alla favola della vittoria di una nazionale ripescata a causa esclusione Jugoslavia, c'è la storia personale del giocatore il quale faceva la spola tra Danimarca e Svezia per seguire la figlia malata di leucemia. Un personaggio poco glamour, ma grande sportivo e grande uomo, Gaetano Da Luca. Quindi vedi che cosa salta fuori. Paolo Atti, io voglio chiederti due cose. Quali episodi sportivi per te? Episodi sportivi ti hanno colpito dentro, ti hanno lasciato queste tracce? Prima cosa è questa, poi ti faccio un'altra domanda. Allora, appena hai lanciato la domanda, ho pensato a Marco Pantani, al Tour de France. Vedi? Sono impazzito. Però devo citare un gol di Baggio contro la Nigeria nel 94, sotto le gambe di 400 persone, che non ha portato a vincere il mondiale, ma io quell'episodio io ricordo che... Perché con la pelle d'oca, vedi, tutto. Con lo sport ti ricordi dove eri, con chi eri, che cosa hai fatto prima, che cosa hai fatto dopo. È questa la magia dello sport, no? È quella che ti lascia. Io ricordo delle schiacciate dell'Italia, Zorzi, dell'Italia contro Cuba, una partita di qualche anno. Ti ricordi dove eri? Ero da mia nonna. Non mi credi. Io maracanesigno ero. Ed è il mio momento di sport, il mio. Bravo. No, personalmente invece sceglierei il mondiale dell'82. Dove eri? Ero a casa, Silvelle, abbiamo preso un trattore per andare in giro con un sacco di ragazzi a festeggiare, e quindi è il momento nel quale abbiamo, come dire, festeggiato collettivamente. Poi l'età, non ero più un ragazzino, insomma, 82 o 17 anni, ma è stato il momento più forte sportivamente parlando. Dunque, abbiamo pochissimi minuti, cioè 3 minuti e 2 ascoltatori, molto rapidamente. Riccardo da Pistoia, buonasera. Sì, buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Dica. Io molto rapidamente voglio portare la testimonianza del momento più bello e contemporaneamente più brutto della, come gioia sportiva, diciamo. Siccome sono livornese, mi ricordo la finale scudetto fra la Heineken parliamo di pallacanestro, e l'Atletico del Milano, dove per un'ora fummo campioni d'Italia, sì, e l'ora dopo non l'eravamo più. Quindi sì, diciamo, quella rimarrà sempre un'emozione enorme. Certo. E, certo, e un saluto a al mitico Zorro, che ci ha regalato emozioni, credo, incredibili. Anche lui. Bravi livornesi, gente strana i livornesi, bellissima città. Però ricordo che quando Zorro ci faceva sognare, noi vincemmo modestamente il trofeo delle scuole superiori nella nostra città, quindi hai capito. È il secondo ricordo più bello. In bocca al lupo. Grazie Riccardo. Ciao, Antonio, ciao. Padova, buonasera, dica. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Dica. Beh, personalmente quello che volevo dire era, per quanto riguarda nazionale di rugby, io ho un bimbo che gioca a rugby da poco, da un anno, e vedere le secondo me, nel valutare anche la prestazione, tener conto delle differenze in campo. La nostra nazionale non è a livello delle altre, delle sei nazioni. Quindi in questo, l'impegno che ci mettono, la grinta eccetera, penso che sia questo che fa la differenza, la simpatia e il giudizio unanimemente molto più morbido da parte di tutti i tifosi, insomma. Sì, sì, sì, no, ma sono cose che, no, certo, sono cose che nessuno mette in discussione, siamo disposti ancora ad aspettare, però qualche segnale ci vuole. L'altra cosa che ti voglio chiedere, Paolati, tu prenderesti un rugbista per fare il testimonial del tuo marchio, o che sportivo prenderesti? Allora, io prenderei un rugbista. Prenderesti un rugbista? Prenderei un rugbista. Adesso prenderebbe un rugbista. Adesso prenderei un rugbista. Perché hai capito che funziona. Nelle 48 ore successive all'ultima meta che ha realizzato nella partita di oggi. Dai, sono perché i nuovi eroi. Sono i nuovi eroi in questo loro momento. Sono veramente i nuovi eroi. Non lo so, ragazzi, io non mi rassegno. Non, ma tu, cioè, pensa al cinema, scusa. No, no, il, no, Gladiatore, no, i 300, tutte queste cose epiche che hanno un riferimento. Ma io sono contento, loro, per, sono contento. Bisogna, sono contento, che per loro, nei prossimi 12-24 mesi ci si inventi qualcosa e si porti a casa qualche risultato. Perché se no potrebbe essere che, vabbè, il glamour, vabbè, se ne va. Dopo questo ti rimando a lavorare a Barboni di Lusso. No, io mi stavo divertendo un sacco nel vedere i momenti che hanno segnato la vita dei nostri ascoltatori. Ce n'è mille. Spoleto Mediolanum 17-16 al tie break. No, non si dice questo, non si dice. Di Perugia, Zorzi c'era. C'era? Ma facciamo, se voi ce ne sono degli altri. Questa è bellissima. Andiamo avanti sabato prossimo. A proposito, dici? Sabato, dimmi, prossimo, allora, oltre ai momenti, pensate anche ai luoghi dello sport. Bravo, ai luoghi dello sport. Compito a casa, avete una settimana di tempo a partire da questo momento. Grazie a Paolo Atti, Barboni di Lusso, Andrea Zorzi qui con me, Giorgio Drucchi in redazione, Paolo Corleone in regia. Con lo sport ci sentiamo domani pomeriggio, tanto dalle 4:30 alle 7 e poi dalle 8:30 alle 9 per parlare di basket. A domani.